L'Italia è un paese duale perché l'economia del centro-nord è diversa dall'economia del sud. Non vogliamo assolutamente, assolutamente non vogliamo che diventi un paese diviso. Vuol dire che le politiche da fare per il centro-nord sono di un tipo, per il sud sono di un altro e necessariamente molto più intenso tipo. Per l'economia, per gli interventi sull'economia, la logica di questo piano è la considerazione della questione meridionale come questione nazionale, non è la somma delle questioni regionali, è qualcosa in più, di diverso, di più importante. È la concentrazione di tutte le risorse e, per inciso, le risorse finanziarie sono di grande rilevanza e sono di crescente rilevanza, dato che i trasferimenti europei attesi nei prossimi anni sono in salita e non in discesa. La questione non è di quantità di capitali, ma di utilizzo dei capitali. Abbiamo verificato che non vengono utilizzati in alcuni casi, che vengono utilizzati in modo non appropriato in altri casi. Quindi concentrazione delle risorse su alcuni grandi obiettivi di opere pubbliche e di altri interventi. Infine, quanto più possibile, sostituzione degli attuali meccanismi di incentivo di trasferimento a pioggia con meccanismi di sostegno, di credito d'imposta fiscali. Questo è un po' uno dei punti di ritorno alla grande politica meridionale fatta dal dopoguerra in poi con la vera efficace fiscalità di vantaggio che c'era allora. Dobbiamo tornare a quello, altre forme di intervento finanziario sono state insufficienti.